Avvocato Falasca, segni anche questo, oltre a no, bere l'esame delle perché se urine, per perché sempre. voglio. Guardate, ho un foglio, sto segnando tutto. Praticamente ho finito la trasmissione con pieno di compiti. Questi Perturbazione sassolini. genetica che io già adotto come mio termine del giorno perché mi è piaciuto moltissimo. Claudio, vada veloce. Sì, buongiorno. Allora, sono contento di aver superato la barriera rosa. La vostra radio è formidabile, si riesce a parlare. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Deborina, cosa offre oggi il mercato? Vabbè, dipende dal mercato. Il mercato delle obbligazioni offre uno strepitoso BTP Italia che ha avuto un grande successo. Se andiamo sul mercato ortofrutticolo, invece ci sono dei pomodori conditi con molte polemiche ultimamente. Noi a cuore e denari cuciniamo quello che passa il mercato, ma i nostri piatti forti sono informazioni chiare e pratiche. Ad esempio, andando al sodo, sì. Tu le etichette, le leggi? Quando vai al supermercato, vai allo sbaraglio oppure sei una di quelle che è prodotto per prodotto, si mette gli occhiali, no, tu gli occhiali ce li hai esatto, e inizi a leggere? Allora. Partendo dal presupposto che mi piace tantissimo andare al supermercato, se c'è un prodotto nuovo che mi incuriosisce, vado a leggere. Gli altri che consumo invece da tempo ormai li butto dentro, vado sulla fiducia e quindi già da questa risposta ho la sensazione di essere una grande superficiale nel rapporto con le etichette. Io leggo, cerco di leggere tutte attentamente, infatti perdo ore, però devo anche trovare gli occhiali, perché senza occhiali io le etichette non riesco più a leggerle, sono diventata presbite, un regalo degli anni. Non è solo colpa tua, è che sono anche abbastanza piccole nei caratteri e qualche volta scoraggiano, ma oltre alla dimensione del carattere sembrano anche un po' complicate, ad essere sinceri. Forse Deborah perché non sappiamo leggere o cosa leggere, ma è quello che impareremo a fare oggi insieme ai nostri esperti. Benissimo, 800 24 00 24 è il numero verde per i nostri ascoltatori, aprite la dispensa o il vostro frigorifero e chiamate il nostro numero verde. Salva Danaio. Il nome E.G. Treadgood le dice qualcosa? No, mi spiace, credo di no. Se lo sarebbe ricordato. Io sono stata praticamente adottata dalla famiglia Treadgood. Ho sposato Leo, il fratello di Iggy. Oh. Sì. Iggy e la sua amica Ruth gestivano il Whistle Stop Café. Ah. Che cosa non darei per un piatto di pomodori verdi fritti come quelli che facevamo al caffè? Non sono verdi, non sono fritti, ma fanno comunque discutere, e parecchio. Eh sì, ha fatto molto discutere la recente campagna pubblicitaria della Pomì, l'azienda, acquistando grandi pagine di giornali, ha voluto specificare da quali zone d'Italia provengono i pomodori che utilizza per i suoi prodotti. La campagna ha acceso molte polemiche, ma a cuore denari ha acceso una lampadina. Eh sì, e oggi abbiamo deciso di parlare dell'origine dei prodotti che mettiamo in tavola, della loro sicurezza e della loro qualità. D'altronde, Deborah, se è vero che siamo quello che mangiamo, la nostra salute dipende molto da quello che scegliamo di mettere nel carrello, nella borsa della spesa, che a causa della crisi si sta sempre più impoverendo, a discapito a volte non solo della quantità, ma soprattutto della qualità. Qualche cifra per dimostrare questo. Nei primi 8 mesi dell'anno, secondo la Coldiretti, si è registrato un taglio del 4% nella spesa alimentare. Nel 2013 il crollo ha riguardato soprattutto il settore dell'olio d'oliva extravergine, che viene consumato con una riduzione del 9%, il pesce meno 13, la pasta meno 9, il latte meno 8, l'ortofrutta meno 3. Il tutto quindi a scapito dei prodotti freschi tipici della dieta mediterranea e in favore purtroppo della presenza sempre più crescente nelle dispense degli italiani di cibi in scatola, surgelati e il cosiddetto junk food, il cibo spazzatura. Quindi proviamo, dobbiamo, cerchiamo di scegliere con cura, leggiamo quello che scegliamo, non si può buttare tutto nel carrello alla rinfusa, è un problema di scelte e per farlo bene abbiamo uno strumento con cui abbiamo a volte un rapporto un po' conflittuale, l'etichetta, che è a tutti gli effetti la carta d'identità del prodotto che acquistiamo. E allora che facciamo? facciamo oggi? Andiamo a fare la spesa con quattro esperti che da punti di vista diversi ci aiuteranno a leggerla meglio. In studio con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Ettore Favia, amministratore delegato dell'organismo di certificazione e testing TUF Italia, sede italiana del gruppo TUF Sud, presidente della PHSRL, laboratorio accreditato in ambito del food testing. Che lavoro complicato che fa. L'ho detto tutto bene di filato? Benissimo. Con lei oggi, dottor Favia, faremo la spesa, ma lei che cosa ci aiuterà a guardare? Cercherò o a scoprire? Cercherò di aiutarvi a guardare oltre l'etichetta, se possibile, nel limite delle mie possibilità, perché il panorama è assolutamente complesso. Ovviamente non è importante solo ciò che ci viene detto esplicitamente, ma anche ciò che vi è a monte di un'etichetta, che è ugualmente importante. Ovviamente il produttore in ultima analisi vuole garantire non solo la sicurezza, ma anche la qualità. Cercherò di farlo senza annoiarvi, senza parlare troppo di leggi e decreti, mandando al punto della questione. Quindi leggeremo un po' anche tra le righe, oltre l'etichetta, oltre la confezione, mi piace. Benissimo, e per le iniziative invece della grande distribuzione abbiamo invitato Domenico Brisigotti, direttore prodotto a marchio Coop, che è la prima grande catena di distribuzione italiana che, anticipando le normative europee sulle etichette, ha proprio da pochissimo lanciato la campagna Origini Trasparenti, con l'intento di far conoscere le origini dei prodotti. Brisigotti, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. In 30 secondi ci anticipa questa campagna, poi ne parleremo più avanti. Ma niente, questa campagna è proprio per dare una risposta al quesito che avete posto voi prima, ossia un consumatore che ha sempre più bisogno di essere informato, ha sempre più voglia di capire cosa c'è dietro appunto l'etichetta, come si dice, e quindi questa campagna tende a spiegare cosa c'è effettivamente dietro l'etichetta, in particolare su un tema molto discusso in Italia, cioè le materie prime che vengono impiegate nei prodotti. Quindi abbiamo spiegato da dove vengono quelle materie prime che sono presenti nei prodotti a marchio Coop. Ed è con noi, non poteva mancare. Non poteva mancare. Il dottor Filippo Ongaro, vicepresidente dell'Associazione Medici Italiani Anti-Aging. Buongiorno, dottor Ongaro, bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Dottor Ongaro, se è vero che siamo quello che mangiamo, lo spiega bene lei nei suoi libri, quello che scegliamo di acquistare per portare a tavola ha un'influenza diretta sulla nostra salute. Di qua non si scappa. No, non si scappa assolutamente, e se uno pensa alla quantità di alimenti che vengono acquistati nel corso di una vita, si capisce che ogni carrello della spesa giorno dopo giorno rappresenta un insieme di scelte consapevoli o non consapevoli che facciamo, da cui dipende la nostra salute. Quindi direi che per capire bene cosa stiamo comprando, imparare a leggere le etichette è assolutamente fondamentale. Tra l'altro penso che sia anche un tema interessante da lanciare ai nostri ascoltatori, cioè chi legge le etichette, quali informazioni ne ricava, come cambiano le scelte di acquisto in funzione delle informazioni che troviamo sui prodotti, anche per capire effettivamente l'efficacia di questa carta d'identità, come è stata chiamata prima, che è molto importante, ma spesso insomma non viene letta con l'ottica giusta. Messa così, allora, a fare la spesa, lo abbiamo capito tutti, soprattutto in questi tempi così difficili, non è un gioco da ragazzi, ma anche oggi noi giocheremo per darvi la possibilità di visitare la mostra di Andy Warhol. Nel corso della nostra trasmissione testeremo la vostra conoscenza delle etichette con tre domande. A ciascuna di queste è abbinata una coppia di biglietti. Al primo ascoltatore che interviene all'800240024 con la risposta giusta assegneremo i biglietti. Allora, Deborah, iniziamo con il primo. Mettiamoli subito alla prova. State attenti, eh? Si può consumare un alimento dopo la data di scadenza? Fate attenzione due volte, perché ci possono anche essere delle domande un po' trabocchetto. Siamo state un pochino cattivelle oggi. Però è facile. 800240024, una domanda, due biglietti. Ottimo, e quindi la domanda deve essere per forza un pochino trabocchetto. Cominciamo subito però con le domande ai nostri ospiti. Dottor Favia, parliamo delle etichette e cominciamo subito a capire che cosa ci dicono, che cosa ci raccontano. Allora, innanzitutto bisogna fare un po' di ordine. Esiste oggi già una normativa che è in vigore, la quale sarà presto sostituita da un regolamento europeo che entrerà in vigore a due tappe, nel 2014 prima, nel 2016 dopo. Quindi, sorpresa, l'indicazione dei valori nutrizionali è un elemento che non è ancora obbligatorio. Quindi qualche vostro ascoltatore potrebbe domandarsi come mai, sì, no, le aziende decidono comunque di indicarlo. E credo sia un tema importante perché i produttori vogliono anche coinvolgere i propri clienti, quindi spesso vanno anche al di là di quelle che sono le normative richieste vigenti, oltre per creare anche un'esperienza di acquisto, è una sorta di customer. Chiederemo di customer poi ai loyalty. Signori di Coop se c'era anche questo obiettivo dietro la loro iniziativa che ci presentano oggi. Assolutamente, lo possiamo immaginare. La grande rivoluzione introdotta dal regolamento sarà appunto a partire dal 2016 l'introduzione dell'obbligo di indicare i valori nutrizionali. È stato poi previsto un'indicazione più precisa di quelli che sono i cosiddetti allergeni, un'indicazione più precisa della dimensione dei caratteri delle etichette. Infatti la normativa vigente prevedeva in maniera abbastanza, diciamo, non precisa il fatto che dovesse essere leggibile. Ora abbiamo addirittura la dimensione quindi dei caratteri. Quindi stanno pensando un po' anche a me con questi caratteri. Infatti prima si parlava appunto di difficoltà nell'individuare i caratteri, abbiamo già risolto il problema, però devi aspettare fino al 2016. Abbiamo capito che non avevi proprio un problema così raro, ecco, mettiamola così. Devono averla sentita in Europa. E questo è un aspetto importante ed è sostanzialmente la rivoluzione del regolamento. Un altro aspetto riguarda i prodotti sfusi. Chi di noi non si sarà mai domandato come mai abbiamo un sacco di informazioni sulla confezione e magari quel cioccolatino che è rimasto lì sul tavolo in sala da pranzo sarà scaduto o non sarà scaduto e che caratteristiche nutrizionali avrà? Ecco, col regolamento viene introdotto l'obbligo anche per i prodotti sfusi di indicare la data di scadenza per non indurre il consumatore in spiacevoli situazioni. Quindi non si sbaglierà più, ma nel frattempo è facile. Dottor Ongaro, il dottor Fabio ci ha dato delle indicazioni. Abbiamo capito che le etichette nutrizionali non sono al momento obbligatorie, molti prodotti però le riportano. Ma lei come ci aiuta a leggerle? Perché solitamente le persone che sono attente alla loro salute danno un occhio alla composizione del prodotto, proteine, grassi, ma lei ci deve dare un po' la chiave per leggere questi valori e soprattutto capire che cosa dobbiamo guardare in modo preciso. Ma sì, ovviamente l'etichetta è la carta d'identità del prodotto, però una lettura prevede anche che il consumatore abbia delle competenze di base per capire che significato hanno certi termini o certi ingredienti, perché non è sufficiente dire ho letto l'etichetta, ci deve essere un'elaborazione che mi dice questo fa bene o questo fa male. Qui si apre un altro tema molto vasto. Sì. Allora, l'etichetta è una base, un punto d'inizio da cui capire quante calorie ci sono, da dove provengono queste calorie, cioè dai grassi, da carboidrati, da zuccheri semplici, da proteine. Bravo, perché dottor Ongaro, spesso ci si ferma solo alle calorie, perché uno dice sì, 100 sì. grammi, tot calorie, oh mamma. Invece sì. Lei mangia con me per settimane e settimane, ci ha detto che le calorie contano, ma fino a un certo punto, anzi contano poco. Questa è la notizia dell'anno per me, Diciamo che perché contano... lei preparava il programma e non sentiva essere benessere, ma poi andate a riascoltare i Mangia con me e ottimo. Soprattutto a spolverare le ricette di Mangia con me. Dottor Ongaro. No, diciamo che le calorie non è che non esistano o non contano, contano ma sono soltanto un punto di vista su un tema molto più complesso, cioè abbiamo detto tante volte 100 calorie da zucchero, da grassi o da verdure non rappresentano lo stesso effetto metabolico nel modo più assoluto pur essendo sempre 100 calorie. Uh-huh. L'etichetta in realtà ti aiuta anche a capire questo perché nella maggior parte dei casi c'è scritto quanti grassi ci sono, quanti zuccheri, quante proteine, c'è la lista completa degli ingredienti che peraltro pochi sanno in ordine decrescente, quindi se al primo posto tra gli ingredienti troviamo lo zucchero, possiamo presupporre che di zucchero ce ne sia effettivamente molto. Si possono identificare le tipologie di conservanti, insomma è una miniera di informazioni. Diciamo che a questo punto, anche rispetto alle nuove normative che entreranno in vigore, il problema, la palla passa un po' al consumatore, nel senso che le industrie stanno cominciando a fornire informazioni preziose, bisogna che il consumatore abbia le conoscenze sufficienti per interpretarle davvero, per fare delle scelte consapevoli. Mm-hmm. Dottor Ongaro, mi faccia un bignamino della lettura dell'etichetta. Io vado quindi e guardo le calorie, va bene. Io guarderei le calorie, ovviamente. Poi? La ripartizione dei macronutrienti, quindi quanti grassi, quanti carboidrati, o zuccheri e quante proteine. Quando è possibile cercherei di leggere la tipologia dei grassi, quindi sono grassi saturi, sono grassi monoinsaturi, poliinsaturi. E qual è, quali sono quelli che ci piacciono? Allora, quelli migliori ovviamente sono i monoinsaturi, i poliinsaturi, e stiamo anche un attimino attenti, ormai sono quasi spariti dappertutto, i grassi idrogenati che non fanno molto bene, e anche a eccessive dosi di grassi di origine vegetale, che spesso sotto questo termine nascondono poi di fatto dei grassi che sono sì poliinsaturi, ma sono del gruppo degli omega 6, e quindi rispetto ai famosissimi omega 3 hanno, diciamo, una proprietà più infiammatoria. Poi guarderei ovviamente anche la lista degli ingredienti in sé, perché attenzione che quando la lista è super lunga, chiaramente stiamo parlando di un prodotto che contiene un sacco di roba, spesso con delle terminologie piuttosto complicate, e lì c'è sempre da farsi qualche domanda su che cosa sono. Ah, quindi anche la lunghezza dell'etichetta ci deve mettere in allarme. No, allora, e poi, scusa, l'ultima cosa importante, ripeto, l'ordine degli ingredienti, perché i primi ingredienti sono quelli presenti in quantità molto maggiori. Quello che ho capito è che anche per la grande distribuzione della quale adesso parleremo, che raccoglie tanti produttori che poi chiaramente vanno sul mercato con i loro prodotti, è un lavoraccio fare questi piccoli micro documenti da applicare chiaramente ai prodotti alimentari che vanno in circolazione. Dottor Brisigotti, Coopitalia, la legge impone di dichiarare in etichetta soltanto l'indirizzo del produttore o del distributore, voi invece avete deciso, siete stati bravi. Però non si monti la testa, non è, ecco dottor Brisigotti, non abbiamo fatto preferenze, siete solo i primi, che è una buona cosa. Speriamo che vi seguano in tanti, insomma avete anticipato quelle normative europee, questo adempimento appunto europeo comunitario che ci raccontava prima il dottor Fava, e siete la prima insegna della grande distribuzione a farlo, come precisavamo poco fa. Ci racconti perché è stato anche un modo, se vogliamo, di affrontare la crisi e restituire un po' di potere d'acquisto da parte, perché come l'ho chiamata? Fabia ho detto? Sì. Con la V. E io cosa ho detto invece? Ah, ho detto Fabia, va bene, ok. Va bene. Vabbè, si vede che stamattina non ho fatto una colazione sufficiente. Allora, dottor Brisigotti, è stato un modo anche per restituire potere d'acquisto ai consumatori o solo una campagna di informazione sull'origine dei prodotti che mettete in commercio? Intanto, sì, la ringrazio. Intanto non ci siamo montati la testa assolutamente, anzi siamo preoccupati, perché naturalmente è un impegno quello di andare a dire alle persone effettivamente da dove vengono le materie prime, significa anche svelare delle cose che le persone magari non si aspettano, e scoprire che alcune sostanze, alcune materie prime importanti non vengono da dietro casa ma vengono da molto lontano. Quindi significa anche affrontare un confronto con i consumatori che fino ad oggi non abbiamo dovuto affrontare fino a questo livello. Speriamo anche noi che altri ci seguano e che su questo fronte finalmente si apra anche la questione dal punto di vista normativo, perché dal punto di vista normativo la cosa si era un po' arenata. Ecco, ma nella sostanza che cos'è che fate? Come mettete a disposizione le informazioni sull'origine degli alimenti ai vostri consumatori, ai vostri clienti? Certo, allora, dato che l'etichetta, non soltanto per far sì che sia più leggibile, perché effettivamente il problema è proprio questo, dare più informazioni significa poi però scontrarsi con le dimensioni fisiche delle etichette, quindi lettering sempre più piccoli, difficoltà per il consumatore a leggere. Addirittura l'origine delle materie prime era impossibile metterla sulle etichette. Allora abbiamo fatto questa operazione rendendo disponibile questa informazione sul sito web, quindi è possibile andare sul sito di Coop e indicando, mettendo il nome del prodotto, il codice EAN del prodotto, si può risalire non soltanto a dove viene realizzato il prodotto, ma anche all'origine delle materie prime principali che lo compongono. Ecco, un'operazione che riguarda ben 1400 prodotti. Sì, tutti i prodotti alimentari confezionati, perché poi per l'ortofrutta questo è già previsto per legge, in parte anche per alcuni prodotti della carne. Ma però le ragioni, io volevo su questo un attimo dedicare una riflessione anche ai precedenti interlocutori che hanno evidenziato questo punto. Il consumatore di oggi è un consumatore che pretende di conoscere, di essere informato, e oramai, come si dice, il re è nudo. Abbiamo assolutamente bisogno di una relazione con i consumatori trasparente, il più possibile trasparente. Naturalmente ci confrontiamo con le difficoltà di un consumatore che ha poco tempo per fare la spesa, sceglie mediamente i prodotti in pochi secondi, tre secondi, però poi riflette, ha bisogno di capire cosa c'è dietro. Tra l'altro viene raggiunto continuamente da notizie anche allarmanti, certo. Allarmanti, molto allarmanti, e quindi va fatto un grande lavoro di informazioni. Certo. Naturalmente non basta solo l'informazione. Ne continueremo a parlare tra poco, dottor Brisigotti, perché sono poi mi piacerebbe cambiare. Sono bravi, sì. Loro non sanno, i nostri, perché avremo quattro. Ah sì, abbiamo detto che abbiamo quattro cavalieri che ci aiutano a fare la spesa, ecco, che non porteranno sicuramente la busta, perché la dobbiamo portare noi. Allora però non abbiamo detto che il migliore di loro quattro vince un mese di spesa con Deborah e Nicoletta, ci accompagnerà per un mese a fare la spesa. Quindi, poveri loro. Preparatevi, mentre ricordiamo che per i nostri ascoltatori abbiamo abbinato a delle domande un po' peperine, ma che sono alla base, no? Sì. Di una buona conoscenza delle etichette, e i biglietti per Andy Warhol. Quindi continuate a chiamare 800 24 00 24, ma soprattutto a porre le domande per i nostri esperti, che abbiamo tempo di sentire. Alessandro, non lo so se sono le 11:30, devo adempiere ad un altro dovere. Alessandro, facciamogli fare la domanda, però dai. Alessandro, buongiorno, rapido la domanda e poi ritorniamo insieme. Allora, premesso che appunto l'ignoranza di noi consumatori è ampia da questo punto di vista, quindi secondo me dovrebbero i medici di base informare il discorso che faceva prima, come leggere l'etichetta, che cosa dobbiamo andare a leggere, cioè l'informazione deve passare non sui siti internet, perché sembra di vivere in Svezia, quanti possono accedere, quindi un'informazione molto capillare. Sì. E poi secondo me, per esempio, sui prodotti animali mi piacerebbe sapere che cosa mangiano gli animali, che poi non trovo. Che cosa mangiano? Perché se mangiano l'erba Alessandro, devo andare ai mercati, punto, devo andare al GR. Però ma abbiamo capito. È molto interessante. Ne ritorniamo subito dopo. A grazie, poco. Alessandro. Cuore e denari. Spingere un carrello pieno sotto braccio a te. E parlar di surgelati, rincarati, far la coda mentre sento che ti appoggi a me. E oggi facciamo la spesa con quattro esperti, quattro moschettieri del carrello felice, anche se il quarto arriverà tra poco, dalle 12:10 in avanti. 800 24 00 24, che cosa guida le vostre scelte al mercato, al supermercato? Queste sono le opzioni possibili, riflettiamo. L'abitudine, scegliete con il cuore perché è un prodotto che avete sempre visto a casa, un prodotto che la mamma ha sempre comperato. Oppure chiaramente la donna di denari non poteva che fare riferimento al prezzo, cioè chi è convinto che chi più spende meglio spende, ma chi compra solo le cose in promozione, il 3x2, il 2x1. Chiediamo invece un consiglio ai nostri esperti, cosa c'è sulla confezione che ci aiuta a scegliere la qualità e la sicurezza. Ritorniamo al dottor Favia. Dottor Favia, allora, a proposito di sicurezza, voi certificate, e quali sono le indicazioni che ci permettono di capire come consumatore, quando lei va a fare la spesa, che cosa guarda per essere tranquillo che è un alimento sicuro? Allora, innanzitutto devo darvi una brutta notizia, o forse buona, dipende dai punti di vista. I maggiori e più influenti pensatori in ambito marketing oggi sostengono che i consumatori acquistano col cuore, con le emozioni. Beh, e non con i denari, purtroppo. E non con la ragione. Voglio vedere come fanno. E non con la ragione. In realtà la volontà di acquisto viene da parti del nostro cervello, certo, che spesso non sono sotto il nostro controllo. È ovvio che la parte razionale deve comunque essere presa in considerazione. E ciò che è importante guardare, credo parta da un concetto che vorrei passasse chiaramente oggi. Sì. Va fatta un'importante distinzione fra ciò che le leggi prevedono, sì, e dal punto di vista del produttore, ovvero ciò che il produttore deve fare per immettere un prodotto sicuro sul, sì, mercato, e ciò che, di cui il consumatore deve essere edotto. Sì. E non sempre le due cose vanno di pari passo. Certo. È un punto importante, perché spesso i consumatori non sanno che dietro al prodotto che acquistano sullo scaffale ci sono una serie di controlli importanti, anche di volumi rilevanti. Pensate che l'Italia è un paese simbolo in Europa, mm-hmm, per la normativa alimentare. Di recente il pacchetto igiene introdotto è stato a livello europeo di fatto ispirato in maniera pesante dalle norme che in Italia esistevano già. già anche da 20-30 anni in alcuni casi. Quindi questo è importante sapere che i prodotti, quando arrivano sullo scaffale, hanno già superato una serie di controlli importanti, che ci sono delle istituzioni le quali svolgono poi un ulteriore controllo sul mercato. Dal punto di vista delle informazioni, è importante, dal mio punto di vista, oggi premiare quelle aziende che ci danno più informazioni possibili. Quindi i valori nutrizionali, seppur non obbligatori, e per quanto riguarda i requisiti minimi, quindi data di scadenza o termine minimo di conservazione che sia presente, allergeni, OGM, e poi si parlava prima dell'origine, da non confondere con la rintracciabilità. Allora, tra l'altro, il nostro gioco ha un'altra puntata in questo momento, Nicoletta. Sì, intanto poi dobbiamo... aspettiamo ancora un ascoltatore che risponda alla prima domanda. Poi dobbiamo rispondere all'ascoltatore, lo faremo tra poco. Tante cose, la seconda tranche. Cosa dobbiamo fare per andare a vedere Andy Warhol? Allora, dovete chiamare all'800 24 00 24 cercando di spiegarci che cosa si nasconde dietro le sigle IGP e DOP. IGP e DOP. 800 24 00 24. Diamo voce ai nostri ascoltatori, perché vogliamo fare una spesa di cuore denari. Esatto. Quindi qualunque dubbio, o anche avete, proprio ieri parlando con la sorella di Deborah, perché noi siamo un po' una famigliona. Una famiglione allargata, più di quelle dei... ci ha raccontato che leggendo le etichette ha fatto una scoperta. Leggendo l'etichetta della confezione della camomilla ha trovato che c'è dentro anche un po' di teina, e quindi dice: ma insomma, a me, mi compro questa camomilla per i miei bambini, per prenderla per me, per tranquillizzarmi, rasserenarmi, e trovo che c'è anche la teina. Quindi sarebbe interessante, Deborah, sapere dai nostri ascoltatori che cosa hanno scoperto di nuovo o di insospettabile leggendo per caso un'etichetta. 800 24 00 24. Volevo riprendere l'ascoltatore che ci ha posto prima quell'osservazione su sì, tutto bello quello che fanno le insegne della grande distribuzione, e magari commentando un po' anche l'iniziativa della Coop che stiamo raccontando questa mattina, Origini Trasparenti, e quindi il loro sito nel quale raccontano qual è l'origine dei prodotti che vengono utilizzati per 140 referenti, appunto, no, per 1400, che cosa sto dicendo, dottor Brisigotti, stamattina sono un po' in confusione, però insomma, cosa pensa dell'ascoltatore di quello che ci commentava prima? Lui dice: sì, bello mettere sul sito tutte queste informazioni, ma noi interessa che, per la verità, possiamo avere la certezza totale di quello che mangiamo e delle loro origini. L'ascoltatore di fatto denuncia il vero problema che c'è dietro tutta questa vicenda, ossia, come è stato detto prima, il consumatore compra spesso attraverso scelte che sono molto emotive e poco razionali, anche se poi il raziocinio viene a casa quando il prodotto si consuma, si ha più tempo per leggere le etichette, quindi per riflettere su quello che si fa. Quindi diciamo che il lavoro sulla parte razionale, come è stata detta, cioè sulle etichette, sulle informazioni, io credo che le aziende lo debbano fare molto bene. Noi ci impegniamo su questo, anche se queste etichette non vengono immediatamente lette, però pensiamo che è un lavoro che darà i risultati, perché è un bisogno che il consumatore esprime. Si è detto prima che non serve soltanto sapere dove vengono i prodotti, ma certo, ogni volta che si raggiunge un nuovo limite se ne pone un altro. Da dove vengono le materie prime, ma da dove vengono anche e cosa mangiano effettivamente gli animali, no? Non soltanto gli animali e quindi le carni che poi dopo consumiamo, ma anche i derivati. Io non voglio soltanto sapere se il latte è buono, voglio anche sapere che cosa ha mangiato quella mucca dalla quale è venuta quel latte. Ecco, tutto il tema della rintracciabilità che è stato posto, e questo è un impegno enorme che le imprese devono portare avanti. Noi ci siamo impegnati moltissimo, io penso che questa è la vera sfida per affrontare anche il tema della crisi a cui lei faceva riferimento prima, perché questa crisi porta dietro un rischio enorme, ossia che si cerchino scorciatoie sui prezzi, per cercare scorciatoie sui prezzi poi si cercano scorciatoie sulla qualità, e questo è il grave rischio che abbiamo tutti di fronte, che dobbiamo prevenire con queste medicine. Ma dottor Brisigotti, voi siete molto in gamba, devo dire, cioè, ci avete insomma molto stupite, vi abbiamo apprezzato in questa operazione di trasparenza. Mi chiedevo però se tutte queste campagne, iniziative, sforzi che voi giustamente affrontate, questi investimenti, avranno poi un po' delle ricadute sui prezzi dei prodotti, insomma le paghiamo anche un po' noi come consumatori. Ma no, queste, guardi, qui si tratta semplicemente di dire alle persone come stanno le cose, e quindi questo non costa, piuttosto diciamo così, non è gradevole dire alle persone come stanno le cose quando o le informazioni non si hanno, non si conoscono, o non si ha piena coscienza di quello che c'è dietro. Quindi il problema non è questo, piuttosto il rischio vero è che arrivino in Italia o si diffondano in Italia prodotti spacciati, tra virgolette, di qualità, magari a posto con le etichette, perché come è stato detto precedentemente, un conto è rispettare la legge nel fare l'etichetta, un conto è scrivere sull'etichetta informazioni aggiuntive volontarie che aiutino il consumatore a scegliere. Ecco, e quindi il rischio di che arrivino prodotti di questo tipo, e quindi noi abbiamo voluto alzare anche una barriera, cioè alzare la sfida rispetto alla qualità dei prodotti e alla loro rintracciabilità, cosa che naturalmente solo gli operatori più avveduti, più seri possono fare. Dottor, faranno, io spero. Dottor Ongar, abbiamo un po' di ascoltatori, e intanto Giusy dalla provincia di Milano, Denise da Como, Michela da Bergamo. Giusy, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Volevo fare una domanda sugli allergeni, perché io sono moglie di un celiaco e mamma di una bambina celiaca, quindi leggo sempre le etichette molto attentamente. Alcuni prodotti mi aiutano perché effettivamente indicano se il prodotto è contaminato da glutine, mentre alcuni no, quindi volevo sapere se è obbligatorio l'indicazione degli allergeni oppure se è facoltativa. Dottor Ongano, il problema è serio, perché le allergie sono in aumento. Abbiamo dedicato proprio, a proposito, Deborah, nelle settimane scorse, una puntata dedicata all'intolleranza al glutine, la sensibilità al glutine e alla celiachia. Ma dottor Ongaro? Sì, allora, sul fatto che sia obbligatorio, mi pare di capire che lo diventerà, ma non lo sia ancora. Vero? Dottor Fabio, è obbligatorio? No, in realtà è ciò che è cambiato, il requisito è già presente. È cambiato il fatto col nuovo regolamento che debba essere indicato con un carattere diverso. Ah, ok, quindi io credo nella maggior parte dei prodotti a mia conoscenza, insomma, questa cosa si riesce a capire se c'è o non c'è il glutine. Quindi non, quindi non nella diciamo sostanza, che dal mio punto di vista questa è una delle operazioni forse di, chiamiamola, tracciabilità più facile, mentre tutto il discorso che faceva l'ascoltatore di prima e che è stato ripreso, cioè per esempio sul fatto di capire come sono stati nutriti gli animali, ecco, questo è un tema molto più complesso, perché un commento che viene naturale, diciamo, anche a me come ascoltatore cittadino, è che nel momento in cui io divento trasparente su come sono fatti determinati alimenti, mi devo poi porre una domanda sui criteri di produzione, di allevamento, certo. Cioè non basta dire è fatto così, nel senso che l'ascoltatore di prima ha toccato un tema a me molto caro. Oggi sappiamo che l'animale che viene nutrito in un certo modo dà effettivamente sul piano del metabolismo e della salute un effetto diverso dall'animale che è nutrito in maniera naturale. Quindi, cioè, il tema è molto ampio, non è soltanto la trasparenza nel dire, ma è anche il mettere in discussione determinate pratiche che andrebbero in un certo senso cambiate, insomma, o perlomeno modificate in qualche modo. Dai messaggi che arrivano, molti ascoltatori si stupiscono, e anch'io come consumatore spesso lo faccio, quando, Carmelo mi sta facendo segno che è tempo di andare a sentire le informazioni sul traffico, ma concludo rapidamente, quando alcuni prodotti trovi degli ingredienti insospettabili. Ve ne leggo solamente uno di Roberto, che ci scrive da Firenze. Nel petto di tacchino compare fra gli ingredienti latte in polvere e albumo di uovo, e uno si chiede perché, cosa c'entra? Cuore e denari. Tina ci scrive al 349-238-6666, leggo sempre le etichette, ma sono rimasta allibita quando circa un anno fa ho scoperto una scritta quasi invisibile in una confezione di arance in rete. Buccia non edibile, le stesse arance vendute anche sfuse, ma senza l'avvertimento, evidenziato nel cartellino del prezzo. Dopo una piccola inchiesta al supermercato, si è presa un po' il nostro posto, la nostra ascoltatrice ha fatto un'indagine direttamente. Ma non aveva i nostri quattro. Vabbè, ho scoperto che nessuno aveva notato la scritta e moltissimi non conoscevano il termine edibile. E io con quelle arance ci facevo la mia marmellata amata utilizzandone anche le bucce. Cara Nicoletta, vorrei chiedere il parere al dottor Brisigotti. Ah, questo è un grandissimo problema. Infatti, posso leggerne un'altra anche? Prego. Ad esempio, alcol etilico nel pancarè. Abbiamo lasciato il petto di tacchino con il latte in polvere e l'albume d'uovo. Poi ci sono dei messaggi che arrivano come attenzione. Rosanna ci scrive che ha dubbi sui pelati, per esempio. Poi tra l'altro le daremo il sito di Coop per andare a cercare informazioni, perché si riferisce proprio ai vostri pelati. Dottor Brisigotti. Sì, guardi, no, questo delle, il problema è questo, che i prodotti hanno, come è stato detto prima, molteplici ingredienti e quindi nonostante sia detto che il consumatore sceglie molto velocemente, molto con il cuore, l'invito è sempre lo stesso, di leggere le etichette, dedicare tempo alla lettura delle etichette, perché le etichette riportano tutte queste informazioni, molte di queste sono obbligatorie per legge. Se le informazioni non ci sono, io da consumatore sospetto lascia che lì sul bancone chi me le sta vendendo vuol dire che non è così informato su quello che mi sta vendendo e quindi tra se non è informato lui voglio dire questo, ecco. Esatto, quindi preferisco un'etichetta ricca, un'etichetta con molte informazioni che mi costringe ad uno sforzo piuttosto che una bella etichetta ma che dietro non ha nulla che mi fa venire qualche dubbio. Rispetto al dire e all'informare, è evidente che per dire e informare bisogna sapere, quindi sì. Questo progetto che abbiamo sviluppato, che svilupperanno anche altri, si può fare solo se si ha piena conoscenza di quello che c'è dietro, quindi non è soltanto un problema di dire. Quindi il tema del pomodoro, la rintracciabilità del pomodoro, noi vorrei rassicurare la signora, noi non soltanto abbiamo un capitolato standard molto preciso con chi produce il pomodoro, ma cioè chi confeziona il pomodoro dentro la scatola, ma addirittura con chi lo coltiva, cioè noi controlliamo, abbiamo le coordinate GPS dei singoli campi dove viene realizzato il pomodoro che poi finisce nelle scatole. Dottor Brizigotti, lei mi tocca il pomodoro, io glielo devo chiedere, ma voi l'avreste fatta una campagna di informazione così dirompente come quella di Pomì? No. Purtroppo mi spiace rispondere in questa maniera così secca, però vede, io credo che questo paese ha tanti problemi, ma anche tante potenzialità e un patrimonio come quello agroalimentare italiano enorme. I problemi che possono esserci, che sono venuti fuori oggi, intanto mi sento di dire che potrebbero esserci a qualsiasi latitudine di questo paese, sì. Prima di tutto. E poi direi che quello che conta è chi c'è dietro, cioè il sistema di controllo che garantisce la qualità dei prodotti che consumiamo, quindi chi è che ce li sta vendendo, la serietà di chi ce li sta vendendo, dottor, e cosa si fa. Vorrei sentire anche il parere del dottor Favia, che lei è un po' un certificatore in fondo, no? Quindi dovrebbe... Dico, povero consumatore, quante informazioni, quante cose deve conoscere? Vorrei provare a portare un po' di distensione, no, nell'argomento. Parliamo di fiducia. Sì. Abbiamo detto che intanto esistono delle istituzioni che sono preposte a controllare per noi la sicurezza alimentare in Italia e lo fanno molto bene. Si svolgono in Italia migliaia di controlli ogni giorno, fatti in maniera professionale, con successo, utilizzando laboratori del settore. Quindi il consumatore deve anche basarsi sia sulla fiducia nelle istituzioni che svolgono questo controllo, che oggi sono un modello in Europa, e sia sulla fiducia nei confronti del produttore, il quale ha tutto l'interesse di fare le cose per bene. Assolutamente. E di farlo sapere. Dovrebbe tranquillizzare un po'. Poi questo non esime il consumatore da informarsi, anzi, faccio una provocazione, potrebbe essere un'opportunità questa, proprio per i produttori, per essere loro ad educare i loro consumatori su come leggere, come interpretare le etichette. Perché no? Abbiamo, come dire, ascoltatori che si sono aggiudicati oggi i premi che abbiamo messo a disposizione, non i premi biglietti, mi sono sbagliata, per la mostra di Andy Warhol. Vediamo. Sono stata già vediamo un po' leggera. Vediamo se hanno risposto nel modo corretto. Michela da Bergamo. Michela da Bergamo, buongiorno, sul primo quesito che abbiamo posto. Michela. Buongiorno. Buongiorno. Allora, lei risponde per... Il primo quesito che era se si può consumare un prodotto dopo la data di scadenza. E la risposta è vero, falso? Sì, è vero che è falso, la risposta è doppia, in quanto perché ho un ritorno comunque. Sì. Comunque la risposta è giusta. La risposta è doppia, sì. Se preferibilmente consumare preferibilmente entro la data, possiamo consumarla oltre la data di scadenza. Invece se la data è consumare entro bisogna si consuma lì, brava, Michela, che soddisfazione, non è caduta nel nostro tranello. E quindi in due alla mostra di Andy Warhol, e andiamo da Maximiliano dalla provincia di Brescia. Che Max, bel nome. Ciao, buongiorno. Buongiorno, eccoci qui, forza. Che cosa vuol dire DOP? Ma e che cosa vuol dire? Volevo sapere, IGP vuol dire Indicazione Geografica Protetta, invece non ho capito se è DOC o DOG. DOC, denominazione origine controllata, se c'è la C finale. E se ci fosse la P? Protesta. Bravo, ne ha risposte. Affolleremo la mostra di Andy Warhol con tutti gli ascoltatori di Cuore e Denari. Dovete andare lì dicendolo, naturalmente. Grazie allora a Denise e a Massimiliano, ma continuate a seguirci perché ci sarà la terza domandona in chiusura di programma. E poi soprattutto nella seconda parte del programma, spazio a tutti gli ascoltatori, potrete porre tutti i quesiti che vorrete e sarà a nostra disposizione anche un avvocato esperto di settore alimentare, quindi ci spiegherà un po' tutte le tutele per chi anche consumando magari un prodotto trova una brutta sorpresa tipo la mozzarella blu o chissà che cos'altro. Dottor Ongaro, lei si ferma, resta o va? Io devo salutarvi, Nicoletta. Ah, mannaggia. Salutiamo anche Brisigotti di Coppa Italia. Buongiorno e buon lavoro, buona giornata, presto. Grazie dottor Brisigotti. Dottor Ongaro, torni presto, il dottor Favia rimane con noi. E poi peschiamo un altro cavaliere della spesa che è l'avvocato Dario Dongo. A dopo. Cuore e denari. Ed ecco, siamo tornati insieme. Oggi si fa la spesa a Cuore Denari con un occhio all'etichetta e naturalmente potete aiutarci voi con le vostre domande, con i vostri dubbi. 800 24 00 24. Abbiamo detto, Deborah, che avevamo quattro cavalieri, i moschettieri del carrello felice, e il quarto è arrivato. Il quarto è arrivato, lo abbiamo aspettato un po' con un po' di suspense e salutiamo e ringraziamo per essere con noi l'avvocato Dario Dongo, esperto in diritto alimentare, cofondatore del Fatto Alimentare, ma non solo, perché di recente ha fatto anche un'altra cosa molto interessante, fra un po' la racconteremo. Avvocato, buongiorno. Buongiorno e benvenuto. Tra l'altro segnaliamo subito ai nostri ascoltatori che l'avvocato Dongo si metterà a vostra disposizione oggi pomeriggio dalle 15 alle 16, quindi inviate le vostre domande se volete su Facebook e da lì direttamente l'avvocato Dongo interagirà con voi. In alternativa scriveteci i vostri quesiti, le vostre osservazioni sul tema di questa mattina all'indirizzo cuoredenari@radio24.it. Le gireremo tutte queste osservazioni all'avvocato Dongo che le commenterà insieme a voi. Allora, avvocato Dongo, ma gli ascoltatori si chiederanno perché un avvocato si interessa di etichette? Beh, perché le etichette sono la carta d'identità dei prodotti alimentari e non destinati ai consumatori, quindi è necessario garantire che queste etichette siano idonee a fornire ai consumatori un'informazione utile ad aiutarli a realizzare delle scelte consapevoli di acquisto, quindi a poter distinguere il valore dei diversi prodotti che sono posti a scaffale offerti loro in vendita. Essere e benessere. Tu arrivi a casa a 7:30 dal lavoro, distrutto, 5 secondi dopo entra lei, apre la porta, guarda, è da stamattina che ho voglia di pollo arrosto. E tu dici, no, peccato, andava anche a me, ma sono già le 7:30. La rosticceria è chiusa. E in quel momento vedi che lei si illumina. E come lei si illumina, a te un brivido corre per la schiena. Lei guarda l'orologio e fa: ma amore! Il brivido diventa terrore. Ma amore! Ma sono le 7:30, ma l'iper chiude alle 9:30. E non so se avete mai fatto caso che in tutti gli iper dopo le 8 sono quasi tutti uomini. E infatti noi andiamo a fare la spesa con i nostri esperti di oggi, che guarda caso li abbiamo scelti tutti uomini. È stata veramente una casualità. Lo allora. Sa, avvocato Dongo, che il migliore di voi quattro vince di una cosa straordinaria, fare la spesa per un mese insieme a me e Deborah. Però sarete condannate ad acquistare i prodotti che vi diciamo noi. Ecco, certo. Avete ancora tempo per scappare. Andiamo allora, alle telefonate? Andiamo alle telefonate degli ascoltatori. Poi l'avvocato Dongo ci racconta che Deborah è innamorata della sua iniziativa, ce la racconta, sì, è vero, per bene. Me l'ha raccontata stamattina prima di partire con il programma e qua siamo rimasti tutti folgorati. Maria Luisa da Torino, buongiorno. Maria Luisa, benvenuta. Sì, buongiorno a voi. Ecco, io mi domando, io le leggo le etichette quando vado a fare la spesa, sì, però la domanda che mi pongo è: chi è che mi garantisce che quello che è scritto sull'etichetta corrisponde al vero? Che non ci siano scritte delle bugie, insomma, Maria Luisa. È un po' San Tommaso. Allora, Non so, io ho comprato, certo, del tonno e dicono tonno di prima scelta, 80 grammi di tonno, poi peso sgocciolato 52 grammi, lo apro e trovo tonno che non è proprio quello di prima scelta perché sono pezzetti. Sì. Olio di oliva, dubbio, perché è molto annacquato, per cui mi domando... Sì. che tipo di olio di oliva può essere. E poi 52 grammi non le sembrano 52 grammi. Allora, insomma, tante domande, ma è vero, come si fa? C'è scritto, ma dottor Favia. Allora, abbiamo parlato prima intanto della fiducia e del fatto che le istituzioni per prime e il produttore abbiano interesse a stabilirla col consumatore, ma esiste anche un terzo soggetto che è il laboratorio per il test alimentare e l'ente di certificazione che contribuisce a rafforzare il meccanismo della fiducia controllando. Le faccio un esempio. Quando si dice che è un prodotto biologico, non è semplicemente un marchio che viene apposto, ma dietro quel marchio c'è una storia. Vengono svolte delle prove, delle verifiche sul prodotto finale, viene validato tutto il processo produttivo e spesso noi come laboratorio riceviamo campioni finali che non sono conformi o per motivi microbiologici o per quanto riguarda i patogeni o per le caratteristiche chimiche dell'alimento, ed è ovviamente è importante anche per noi stabilire poi una fiducia con le aziende e il consumatore in maniera tale che il lavoro che facciamo trovi un riscontro. Questi quattro pilastri insieme uniti alla regolamentazione europea, la quale sancisce col nuovo regolamento il cosiddetto principio di trasparenza nei confronti del consumatore, crea ovviamente un meccanismo di tutela. Attenzione però, non è possibile eliminare il rischio, è possibile ridurlo. È importante stare nell'alveo di questi quattro pilastri. Considerate che in un laboratorio vengono testati, per esempio nel nostro laboratorio, quotidianamente migliaia di prodotti. Avvocato Dongo, allora un conto è che sull'etichetta ci siano delle informazioni completamente sbagliate, un conto è, come lamenta l'ascoltatrice, che siano incomplete, non totalmente veritiere. Cosa può fare un consumatore? Lamentarsi con il distributore o i produttori di questi prodotti, per l'appunto? E ci sono stati dei casi, perché lei è un legale, forse li conoscerà anche, in cui un'etichetta è stata contestata ed è stata data piena ragione al consumatore? Ma i casi sono moltissimi. Parliamo anzitutto di segnalazioni che provengono appunto dal basso, dal consumatore, il quale si può rivolgere alle autorità sanitarie locali piuttosto che al nucleo antisofisticazione dei carabinieri, o anche più semplicemente mandare quattro righe al Fatto Alimentare, che abbiamo costruito anche per questo. Esatto, sì. Poi c'è la vostra petizione e la segnaleremo. Segnalare un dubbio e cercare di trovare una risposta che può essere una valutazione di conformità legale e anche, se del caso, una segnalazione alle autorità competenti. Non perdiamo la fiducia, perché il nostro è un po' il messaggio che lasciava. No, però per esempio l'ascoltatrice diceva prima nella confezione di tonno mi dicono che ci sono 80 grammi, poi vado a pesarli, sono 50. Qui chiaramente non è un danno, perché non è un prodotto che comunque fa male alla salute della persona, però l'informazione non è corretta. Lì cosa possiamo fare? Beh, se mai questo fosse, si tratterebbe di una frode in commercio, se non addirittura di una truffa, una truffa aggravata, e quindi ci sono tutti gli elementi anche per ottenere una tutela legale. Ma probabilmente il caso che viene segnalato è rilevante soprattutto dal punto di vista della qualità, e la qualità purtroppo non si può certificare oltre un certo livello, e quindi se la percezione del consumatore rispetto alla qualità del tonno è inferiore rispetto alle attese, deve cambiare marca. Il mercato può esattamente il mercato fa il suo compito in questi allora casi. Ricordiamo però questa petizione sul Fatto Alimentare, la grande distribuzione in realtà mettere... voi siete andati proprio ai prodotti che magari una grande insegna ha ritirato perché dannosi, e il caso è che li faccia conoscere i nomi di questi prodotti a tutti i suoi clienti. Sì, certamente, come già avviene in diversi paesi europei e come avviene anche in alcuni esercizi della distribuzione in Italia. Noi abbiamo lanciato questa petizione perché abbiamo ritenuto utile comunque mantenere quel livello di trasparenza che i consumatori meritano e rispetto al quale anche la filiera produttiva e quella distributiva non hanno nulla da nascondere. Andiamo a qualche telefonata, sì. Sono tanti gli ascoltatori che si mettono in contatto con noi, andiamo quindi a fare la spesa con Barbara, che ci chiama da Verona. Vediamo i biglietti di Andy Warhol che fine hanno un fatto. Un attimo, abbiamo un po' due, li abbiamo dati. Sai che io voglio regalarli a tutti. Vogliamo darlo. Barbara, intanto prima di sentire la sua domanda, Deborah vuole darvi i biglietti a tutti i costi. Io volevo aspettare l'ultimo minuto la barriera rosa. Per superare la barriera non rosa. Ci siamo messe d'accordo. Però Deborah è più buona e allora voi dovete rispondere a una domanda. Che cos'è il QR code? 800 24 00 24. Magari Barbara lo sa già, ma Barbara, la sua domanda qual era? Dunque, io volevo formulare più di una domanda e sono questi. Ci mettiamo comodi allora. Vada. Per quale motivo, quando anche recentemente sono stati sequestrati non so se qui in Italia sono andati di materiale contraffatto biologico, sì, non viene mai detto il nome dell'azienda? Noi consumiamo prodotti biologici perché crediamo nel biologico, siamo vegetariani, sì, e siccome il biologico in Italia costa il triplo che non in Austria, in Slovenia, sì, o da altre parti, o in Francia, io ho il diritto di sapere chi è questa azienda che mi sta truffando e quindi non la comprerò. Va bene, ok, una prima domanda, cosa, due, vada. Potete concedere il tempo, gentilmente cercherò di essere sintetica. Io leggo molto le etichette, mi fa preso anche la lente perché sennò sono illeggibili. Vuoi sapere come mai spesso e volentieri non c'è scritto anche l'origine del prodotto, ma soltanto il luogo di produzione, diciamo, di produzione. Okay. E una cosa che probabilmente non molte persone sanno è che è successo poco tempo fa che una donna è stata ricoverata in ospedale per un'infezione abbastanza banale. Questa donna mangiava molta carne, carne ovviamente i cui animali venivano allevati con una quantità di antibiotici pazzeschi, sì, hanno tentato con 5 antibiotici, questa donna era antibiotico resistente. Purtroppo, e quindi questa non donna è morta a causa del fatto che mangiasse la carne, insomma. Un'altra cosa, io mi rifiuto di comprare i prodotti che vengono dall'altra parte del mondo. Barbara, le devo chiedere però di essere un po' rapida. Il pomodoro cinese, non ne vuole sentire parlare. La terza domanda qual ragione era, Barbara? Sono prodotti più o meno a 20, 40, 50 chilometri. Sì. Va bene, Barbara, avevo un'altra domanda o no? Barbara. No, io Avvocato Dongo, grazie Barbara. Avvocato Dongo, allora le aziende bio che vengono in qualche modo pizzicate, il nome non viene perché sono più belle delle altre? No, assolutamente. Bisogna innanzitutto ricordare che, per chi non lo sapesse, ogni anno al Ministero della Salute, che è il ministero competente per la vigilanza sulla sicurezza alimentare, pubblica un estratto di tutte le sentenze che hanno di condanna nei confronti di operatori alimentari che si siano macchiati di frode in commercio come quella, o di truffa come quella. Quindi intanto colpa dei giornalisti che non vanno a sfrucugliare tra queste notizie e si occupano di altro. Mettiamoci un po' anche noi a fare un esame di coscienza. Però ha ragione, avvocato. Diciamo che intanto una fonte di informazioni c'è. La domanda della lettrice è molto interessante perché dice: ma perché io non lo so subito? Effettivamente, ai sensi del regolamento 178 del 2002, che è il cosiddetto General Food Law, la Grundgesetz, la costituzione del diritto alimentare europeo moderno, è previsto che ogni qualvolta si verifichino incidenti relativi alla sicurezza alimentare e relativi a prodotti che hanno già raggiunto gli scaffali sia data idonea informazione al consumatore. Il problema è che bisogna lavorare di più e ottenere anche delle misure applicative come quelle che noi abbiamo chiesto con la nostra petizione del Fatto Alimentare, affinché sia data pubblica notizia in tempi anche rapidi di non conformità gravi che rilevino o ai fini della sicurezza alimentare o comunque in relazione a truffe e frodi in commercio. E poi c'era questa questione molto grave della carne, anche questo allarme carne. Trattati con un mi attimo piacerebbe... avvocato, che facciamo rispondere al dottor Favia. Poi sentiamo anche la sua opinione. Della carne, allora innanzitutto la signora è morta. Torniamo alla questione del terrore, no, di prima. Quando parliamo di origine, di nuovo non dobbiamo confondere con rintracciabilità. L'obbligo di origine esiste già per legge, dell'indicazione di origine per diversi prodotti, fra cui ad esempio quelli vegetali, il pesce, la carne. E se sono prodotti in Italia, per quanto riguarda i vegetali, è sufficiente che si dica Italia, cosa diversa se la questione è extraeuropea. Per quanto riguarda la carne, anche qui c'è una regolamentazione ferrea sulla carne, questo non deve essere sottovalutato. Considerate che noi svolgiamo anche test genetici, quindi come si fa a sapere se la carne è contaminata da specie quali, ad esempio, quindi, la specie equina? Sì, tanto per dire, quindi c'è una la carne di sicurezza. Cavallo nei ravioli, voi sì, avete esatto, test l'altro grande caso di qualche trova mese fa. Assolutamente, sono identificabili anche per percentuali bassissime. Una cosa importante, oggi la legge è generica sulle percentuali, quando parliamo di ingredienti, quando un produttore deve o non deve indicare o fino a che punto. C'è uno spazio di manovra, quindi questo deve essere chiaro. E dal punto di vista generale, anche quando si parla di origine, vorrei dare una piccola pillola, sì. Non per terrorizzare i consumatori, ma per creare un po' di consapevolezza. E esiste anche nel nuovo regolamento il concetto di trasformazione sostanziale. Ovvero, se la trasformazione sostanziale di un prodotto che è di fatto prodotto all'estero avviene in Italia, pensiamo alla farina per esempio, se la pasta viene di fatto realizzata in Italia con una farina che è extraeuropea, secondo il regolamento la trasformazione sostanziale avviene in Italia, quindi è possibile indicare quindi Italia là sul dove si fa finale. Il grosso rimane il... Avvocato. Avvocato Dongo, invece lei sulla carne e l'antibiotico, sua posizione? Ma la mia posizione è di fiducia nei confronti delle istituzioni che garantiscono in Italia più che in ogni altro paese al mondo una diffusione, una meticolosità dei controlli davvero straordinaria. Quindi non si può mai escludere l'esistenza di un rischio, certo. Ma sicuramente ci troviamo in un paese dove la sicurezza alimentare è a un livello elevato ed è effettivamente garantita in ogni ambito centrale, regionale e territoriale. Abbiamo ancora tempo per i nostri ascoltatori? Sì, abbiamo ancora 3 minuti e mezzo, quindi chi peschiamo? Peschiamo chi vuole rispondere sulla domanda difficilissima che hai voluto fare, oppure allora abbiamo Stefano da Ferrara, buongiorno, vuole venire a vedere la mostra di Andy Warhol? Ma buongiorno, ma che carino. Ha fatto la spesa Stefano stamattina? Questa mattina no, ieri sera sì. Bene, quante etichette si è letto da cima a fondo? Un paio, soprattutto per i prodotti che non conoscevo. Ah, ecco, infatti, visto che ha fatto c'era come un olio nuovo, c'era un olio nuovo in offerta, ho detto, leggiamo un attimo. Da dove arriva e chi l'ha prodotto e chi l'ha confezionato. Esatto, soprattutto chi l'ha fatto e confezionato. Allora, Nicoletta le rifà la domanda. Allora, che cos'è il QR code? QR Code è un acronimo di Quick Response Code, codice, e praticamente... Ci ha già umiliato a sufficienza Stefano. Allora, cosa serve? No, aspetta. È l'evoluzione del codice barre, praticamente è un codice bidimensionale, fatto a punti. Sì, ma ha una particolarità. Sì, può essere letto con delle fotocamere. Ma ragazzi, ma voi giocate con Stefano che ne sa più di noi, Stefano. Bene, l'aspettiamo a Milano. Allora, grazie. Eccoci. Va bene, grazie a voi. Buona giornata. Andiamo. Andiamo Andrea da Udine. Andrea, buongiorno. Sì, deve essere buongiorno. Telegrafico perché siamo in chiusura. Telegrafico, perché non viene indicato la presenza dei solfiti? In tantissimi prodotti e viene scritto prodotto senza conservanti. Grazie quando Andrea. Grazie, abbiamo capito Andrea, tra l'altro c'è questa campagna pubblicitaria dei vini, questi vini liberi. Avvocato Dongo, allora questo io solfito va indicato. Avvocato Dongo. Sì, aspetta. Allora, l'obbligo di indicare i solfiti in etichetta scatta soltanto quando la concentrazione dei solfiti sia pari o superiore a 10 mg su litro per le bevande o su chilo per i prodotti alimentari. E questo ci spiega perché su alcuni prodotti nei quali pure siano residuate tracce di solfiti non troviamo una evidenziazione del tipo contiene solfiti. Pur tuttavia, ogni qualvolta sia stato impiegato un conservante di tipo solfita, è anche al di sotto della soglia che ho indicato, è obbligatorio indicare la sua presenza in lista ingredienti. Grazie. Allora, io invito i nostri ascoltatori, quante ne sanno questi nostri esperti, invito i nostri ascoltatori ad andare a dare un'occhiata sul portale www.greatitalianfoodtrade.it. In realtà io lo dico in inglese, ma questo è un sito fatto in 7 lingue perché vuole promuovere la cultura alimentare italiana all'insegna della sostenibilità e della nutrizione equilibrata, al lavorone dell'avvocato Dongo. Grazie. Grazie, grazie ai nostri moschettieri, a voi. A domani. A domani, buona giornata. Cuore e denari.